Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, Conte, stop alle polemiche. In arrivo un protocollo unico per le regioni. Ricciardi dell'OMS ammette troppa frammentazione, ma i vertici della Lombardia attaccano governo incapace. 283 i contagi, i primi casi a Firenze e Palermo. In Europa aumentano i controlli sui voli provenienti dall'Italia. Decreto intercettazioni, oggi la Camera vota la fiducia. Calabria, operazione anti-'ndrangheta, 65 arresti, in manette anche un consigliere regionale di Fratelli d'Italia. È morto a 91 anni Hosni Mubarak, presidente per 30 anni dell'Egitto, fino al 2011, quando fu spodestato dalla primavera araba. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24, 13:01. Cominciamo la pagina con gli aggiornamenti del coronavirus. Notizie fornite poco fa dal commissario straordinario per l'emergenza Borrelli e anche dal nuovo consulente dell'OMS Walter Ricciardi. Aggiornamenti che giungono dopo che tra la sera di ieri e la mattina di oggi c'erano state una serie di polemiche tra il Presidente del Consiglio Conte e vertici anche della regione Lombardia. Ci colleghiamo con Alessandro Arona, che ha seguito proprio il conferenza stampa e tutta la mattinata l'incontro tra il governo e le regioni. Alessandro, c'è un problema con il collegamento. Allora cominciamo a sentire intanto la voce di Walter Ricciardi, che per la prima volta oggi si è presentato alla conferenza stampa come consulente del Ministro della Salute Speranza. Ricciardi, che fa parte dell'OMS e ha intervenuto anche proprio in materia di questa polemica che c'era stata alla vigilia tra Conte e i vertici delle regioni. Conte ieri aveva parlato di un protocollo non seguito in un ospedale lombardo. Sentiamo Ricciardi. Quello che probabilmente è successo in Italia è che dopo i primi casi di Roma, che sono stati gestiti in maniera antologica, la frammentazione regionale, non ne faccio colpa a nessuno, ha cominciato a determinare che quella regione faceva i tamponi agli asintomatici, che quell'altra regione faceva i tamponi ai contatti, che quell'altra regione... Allora in questo modo si è persa l'evidenza scientifica che dice, l'OMS dice, i tamponi vanno fatti solo ai soggetti sintomatici. È chiaro che c'è stato un momento in cui evidentemente noi abbiamo in qualche modo avuto qualcuno che proveniva dalle zone a rischio che è entrato nel nostro paese. Quello che è molto importante è che le misure che credo più tardi comunicheremo dopo la comunicazione con le regioni sono le misure giuste nel tempo giusto e nel modo giusto. Ecco Alessandro Arona, così Ricciardi. Poi sappiamo che ha parlato anche Angelo Borrelli, commissario per l'emergenza. Quali sono i numeri forniti questa mattina alla stampa, Alessandro? Sì Alessio, scusate prima per i problemi di collegamento. Avete sentito che Ricciardi in qualche modo ha confermato le critiche al governo che aveva sempre fatto per non aver previsto la quarantena per tutti quelli che arrivavano dalla Cina, però ha anche criticato il modo un po' disomogeneo in cui le regioni e le singole ASL hanno affrontato il problema. Quindi ha detto, perché nel tema del giorno è una riunione in corso tra il governo e i presidenti delle regioni collegati in teleconferenza per adottare un protocollo unico, quindi linee comuni per affrontare tutte le misure sia sanitarie che di ordine pubblico per limitare il contagio. Però come dicevi, Borrelli ha dato intanto gli ultimi numeri, che sono di 283 contagi in Italia, quindi 54 nuovi casi individuati da ieri, sono sempre la maggior parte in Lombardia, 212, e sono 40 casi in più, 38 in Veneto e sono 5 casi in più, 23 in Emilia Romagna e sono 5 casi in più, restano 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, sono sempre i 3 noti casi fin dalle settimane scorse, 2 in Toscana e 1 emerso oggi in Sicilia, una turista che veniva dalla Lombardia ed è sotto controllo con tutte le persone che stavano con lei. Poi ci sono, per quanto riguarda la tipologia, 29 sono ricoverati in terapia intensiva, 109 sono ricoverati con sintomi, quindi non sono gravi, e 137 senza sintomi sono in isolamento domiciliare. Quindi come dicevi, la riunione di oggi è cominciata tra le polemiche che sono state innescate dallo stesso Presidente Conte ieri sera, che aveva criticato un ospedale del nord, il riferimento era chiaramente a Codogno, per non aver adottato i protocolli sanitari necessari, e poi anche alle iniziative estemporanee delle regioni, addirittura paventando l'ipotesi di adottare provvedimenti nazionali che riducessero l'autonomia delle regioni. Ora però il clima sembra più disteso, c'è una dichiarazione di poco fa del Presidente Zaia della Regione Veneto, che dice che chiede all'Istituto Superiore di Sanità di dare indicazioni stringenti su come comportarsi, quindi in qualche modo sembra ammettere che forse serve una linea guida più stringenti su come adottare, su come fare i tamponi, su come fare i controlli, su come tamponare l'emergenza. Quindi vedremo se dopo la riunione ci saranno dichiarazioni di Conte e dei presidenti delle regioni. A voi la linea. Grazie ad Alessandro Arona per questa ampia pagina con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus. E a proposito della polemica innescata dalla dichiarazione di ieri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a dire la verità una dichiarazione analoga l'avevamo sentita anche ai nostri microfoni sempre ieri da parte del Presidente del Sindacato ANAO Carlo Palermo, che aveva parlato comunque di un protocollo non seguito nei primi ospedali dove l'emergenza è scoppiata in Lombardia, a Codogno, e anche la mancanza di kit preventivi. Questa sicuramente è una questione su cui si discuterà ancora, vedremo se la polemica politica si placherà, poi se ci sarà da accertare qualche sottovalutazione o qualche errore ci sarà modo di naturalmente di farlo. Intanto su questo strappo politico l'analisi di Daniele Biacchessi. La politica italiana ai tempi del coronavirus registra ancora polemiche, divisioni, scambi di accuse gravi tra maggioranza e opposizione, tra governo Conte bis e alcuni presidenti di regioni a trazione leghista, vari esponenti di partito. Non è un bello spettacolo, bisogna ammettere. In un paese al terzo posto della diffusione del contagio nel mondo, dove è in atto una sorta di psicosi collettiva che porta una fetta della popolazione ad assaltare gli scaffali dei supermercati, la politica dovrebbe mostrare una maggiore coesione nelle soluzioni messe in campo per debellare la diffusione del coronavirus. Perché in palio non c'è la leadership di un partito sull'altro in una campagna elettorale permanente. Qui c'è di mezzo la salute degli italiani, e di fronte a questo bene comune le divisioni dovrebbero essere messe finalmente da parte, accantonati gli interessi locali, per rendere visibili le visioni di insieme, pur mantenendo le dovute differenze. In assenza di autoregole, forse ci sarebbe bisogno dell'intervento di un arbitro terzo, di tipo istituzionale, che possa riportare alla calma e alla concentrazione le autorità preposte alla salute pubblica. E intanto a livello globale sono circa 80.000 i casi di contagio, 77.700 in Cina, 977 in Corea, i decessi sono saliti a 2.663. Intanto si fa più vicina la possibilità di avere un vaccino. L'azienda biotech americana Moderna ha infatti annunciato di aver spedito il primo lotto del vaccino sperimentale all'Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive per avviare la fase 1 della sperimentazione clinica su un numero molto piccolo di persone. E dopo la giornata di ieri per le borse, oggi i listini cercano un rimbalzo, ma le ripercussioni economiche del coronavirus si fanno sentire anche in agricoltura. Secondo la Coldiretti, la zona rossa rischia la paralisi. Dopo il crollo di ieri, Milano e le borse europee tentano un rimbalzo in avvio di seduta, ma non ce la fanno. L'emergenza coronavirus continua a creare incertezza. A preoccupare sono i contraccolpi sull'economia. Londra, Francoforte e Parigi sono in rosso. Piazza Affari guida ai ribassi. Ieri ha bruciato 30 miliardi e perso in un giorno tutti i guadagni del 2020. Il FTSE MIB oggi ha aperto gli scambi con il segno positivo, per poi ripiegare e a metà seduta cedere l'1%. Segnali di tensione ci sono anche sui titoli di Stato. Lo spread tra BTP e Bund è tornato infatti a salire a 150 punti base. Per fronteggiare l'emergenza economica, il governo è al lavoro su un nuovo decreto legge. Nei prossimi giorni, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, ci saranno interventi sulla cassa integrazione e una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese e dei settori più colpiti. Misure che verranno definite e modulate, puntualizza Gualtieri, anche sulla base dell'evoluzione del quadro complessivo. E oggi pomeriggio il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli incontrerà Confindustria, Rete Imprese, Alleanza Cooperative e Confapi per un confronto sulle misure da adottare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alle misure adottate dai paesi europei, sono diverse, riguardano soprattutto i voli dall'Italia che saranno messi sotto controllo, ma in alcuni casi si tratta di vere e proprie interruzioni dei collegamenti. Sentiamo. L'Italia resta osservata speciale e non solo da parte dei paesi confinanti. La Gran Bretagna da oggi ha imposto l'autoisolamento per 14 giorni a tutte le persone in arrivo dalle aree dell'Italia settentrionale più a nord di Pisa, Firenze e Rimini che presentino sintomi, anche leggeri, di un potenziale contagio da coronavirus. Il Kuwait ha sospeso tutti i voli da e per l'Italia, la Corea del Sud e la Thailandia. È il primo provvedimento del genere adottato all'estero nei confronti del nostro paese. La compagnia nazionale bulgara, la Bulgarian Air, ha invece sospeso tutti i voli da e per Milano fino al 27 marzo. Nell'aeroporto di Praga, capitale della Repubblica Ceca, infine, tutti i passeggeri in arrivo dall'Italia dovranno transitare in un gate dedicato con misure igieniche rafforzate, dove saranno sottoposti a controlli mirati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le altre notizie. La politica, da segnalare oggi il voto di fiducia sul decreto intercettazioni, voto che si terrà nel pomeriggio. E invece per la cronaca ci sono due importanti operazioni in Sicilia. I carabinieri di Catania hanno eseguito oggi 23 arresti nell'ambito di indagini su oltre 20 omicidi di mafia commessi in un lungo arco di tempo tra la fine degli anni 80 e il 2007. Arresti anche in Calabria in una operazione contro l'Andrangheta per reati di armi e droga, un'operazione che ha coinvolto anche un consigliere regionale calabrese. C'è anche un consigliere regionale tra gli arrestati dell'operazione che è stata effettuata oggi nel Regino dalla polizia, che con il coordinamento della DDA ha colpito la storica cosca Alvaro di Sinopoli. Si tratta di Domenico Creazzo, eletto il 26 gennaio scorso tra le fila di Fratelli d'Italia. Creazzo è anche sindaco di Santa Eufemia d'Aspromonte e si sarebbe avvalso dell'aiuto dell'Andrina. In tutto sono 65 le persone finite in manette, tra loro capi storici, elementi di vertice e affiliati alla cosca Alvaro, ma anche amministratori locali e tecnici comunali. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa ai reati in materia di armi, sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento, violenza privata, violazioni in materia elettorale. Sequestrate armi e, grazie a numerose intercettazioni, scoperto anche un piano per distruggere con una bomba ad alto potenziale un immobile confiscato e destinato ad ospitare un commissariato. Ma sono venuti alla luce anche decine di episodi di estorsioni ai danni di imprenditori della zona. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E adesso riprendiamo in qualche modo la pagina sul coronavirus, perché sono molte le manifestazioni che erano previste, soprattutto legate al carnevale, che sono state annullate. Sentiamo. A Venezia il carnevale si è fermato prima. Smontato con due giorni di anticipo il grande palco della festa, gli alberghi cominciano a fare i conti con questa interruzione forzata e la stima è pesante. 40% di disdette con dato in crescendo. Le cene in hotel, al pari di quelle dei pubblici esercizi, possono essere confermate. Cancellati invece balli in maschera, feste, dibattiti e proiezioni. Sospeso un altro carnevale tradizionale, quello di Ivrea, ma ieri è stata organizzata una marcia spontanea non autorizzata. La Mugnaia e il Generale, in borghese, sono usciti per una passeggiata nelle vie del centro e intorno a loro si è formato un corteo spontaneo di cittadini. Altre città hanno annullato le sfilate in via precauzionale, come la calabrese Castrovillari, mentre Viareggio ha confermato l'ultima sfilata, quella del Martedì Grasso. Il carnevale della diocesi ambrosiana invece sarà sabato, ma anche qui le manifestazioni sono ovviamente a rischio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:14 minuti, effetto giorno, fa un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Parleremo tra l'altro della morte di Mubarak, l'ex presidente egiziano fino al 2011, poi come si vive in tempi di quarantena da coronavirus. Andremo a Vo Euganeo in provincia di Padova e poi l'allarme per la carenza idrica nel bacino del Po, il racconto del nostro inviato che dice siamo in realtà alla vigilia di una vera e propria siccità. Tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, Conte, stop alle polemiche. In arrivo un protocollo unico per le regioni. Ricciardi dell'OMS ammette troppa frammentazione. 283 i contagi, i primi casi a Firenze e a Palermo. In Europa intanto aumentano i controlli sui voli provenienti dall'Italia. Decreto intercettazioni, oggi la Camera vota la fiducia. Calabria, operazione anti-ndrangheta, in manette anche un consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Carenza idrica nel bacino del Po, il racconto del nostro inviato. Siamo alla vigilia di una vera e propria siccità. È morto a 91 anni Hosni Mubarak, presidente per 30 anni dell'Egitto, fino al 2011, quando fu spodestato dalla primavera araba. Minuti, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati. Come detto, adesso proviamo a fare un passo all'interno di quelle che sono state definite zone rosse. Fra l'altro, la notizia di oggi che sono anche aumentati i posti di blocco dei militari, i controlli soprattutto nella zona lombarda. Noi invece adesso proviamo ad addentrarci in quella veneta. È con noi Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino e anche di Voe Euganeo, che abbiamo imparato a conoscere, in provincia di Padova. Buongiorno. Sì, buongiorno. E benvenuto. Allora, sappiamo che in questi giorni un po' per tutti gli abitanti del nord, scuole e università chiuse, chi fa smart working nelle zone rosse, però la vostra, per esempio, è una zona rossa, sicuramente la situazione è più estrema. Voi vi state organizzando, tra l'altro a Voganeo è un comune dove ci sono stati, se non sbaglio, 29 casi positivi, quindi un numero piuttosto elevato, dico bene? Un po', se potremmo dire, insomma, è l'epicentro, insomma, del Covid-19, almeno in Veneto. Almeno in Veneto. E quindi, insomma, magari ci racconterà anche insomma, l'esperienza personale, se ha conoscenti, sì, e come stanno queste persone. Però la notizia che ci ha colpito è questa: per cercare di rendere la quarantena meno complicata, meno complessa per i bambini, meno forse complessa anche per i genitori, lei ha avuto un'idea, lei e il suo team di insegnanti, di insomma, in qualche modo tenere viva la scuola attraverso le tecnologie che ce lo consentono. In che modo vi state organizzando? Sì, allora, infatti, per rispondere alla sua premessa, tutto è nato più o meno sabato sera, domenica mattina. Noi ci siamo resi conto con il mio staff di docenti che noi non possiamo intervenire sull'aspetto sanitario, non possiamo intervenire su quelle che sono le ordinanze, nel nostro caso da parte dei sindaci, ma possiamo continuare a essere scuola e quindi in questo senso a fare la differenza da un punto di vista educativo. Il problema nel nostro caso è che mentre è probabile che dal 2 marzo la maggior parte, o ci auguriamo che tutte le scuole del Veneto, quasi tutte, insomma, apriranno, nel caso di questo non avverrà, insomma, è chiaro. E tra l'altro stiamo discutendo con i sindaci anche se questo ci sarà la riapertura a Lozzo. Cioè, voi avete già, come dire, una contezza, una mezza certezza, addirittura se c'è, sì, la quarantena, appunto, per 14, sì, giorni, noi abbiamo abbiamo la metà dei miei bambini, e bambini li chiamo miei, insomma, però dei miei studenti risiedono a Boh e quindi sono lì. Quindi dice almeno per due settimane saremo bloccati. E sicuramente qui anche è scattata appunto l'idea, ce la racconti? Sì, allora noi già da settembre 2019 stiamo dando una forte spinta sul digitale. In questo senso, per noi il digitale a scuola diventa un investimento, un'opportunità. Abbiamo detto, noi non stiamo qui a discutere se il digitale è rischio, pericolo e altre cose. Diciamo, noi vogliamo restituire, usiamolo in questo momento, vogliamo restituire la voce, prima di tutto, certo, la voce dei maestri proprio ai bambini, perché un bambino di 6-7 anni, anche se fosse solo per 5-10 minuti al giorno, attraverso, diciamo, una storia, una favola, attraverso l'agorà, noi si raccontano le emozioni al primo mattino, insomma, abbiamo fatto già una grande differenza. Ecco. Certamente, per i bambini è chiaro, chi è genitore e conosce, insomma, la situazione dei bambini, ma anche chi non è genitore capisce immediatamente quanto è punto di riferimento importante per questi bambini il maestro. Farne a meno per due settimane è una cosa su cui voi state lavorando per cercare di aggirare questo divieto. Quindi cosa avete messo in piedi? Collegamenti, allora, su Skype, chat, diciamo, su WhatsApp? Così, noi abbiamo, La soluzione l'abbiamo strutturato su due aspetti: l'aspetto didattico, abbiamo utilizzato i software gratuiti, qui ce ne sono tantissimi, non voglio fare nomi, ma comunque ci sono... Ma faccia pure nomi, non c'è problema, tanto per capirsi. Ok, noi utilizziamo un misto tra, utilizziamo Microsoft Teams, che è come Google Classroom, che usiamo entrambi, per il punto edu, cioè quindi il nostro dominio scolastico, dà la possibilità di dare accesso illimitato a utenti studenti e utenti docenti. Ecco, quindi... ma faccia conto che stia parlando con uno che non capisce niente, cioè io in questo momento. In che modo i bambini entrano in contatto con i maestri? Allora, i bambini non hanno bisogno di registrarsi, avranno un link, ecco. Quindi noi avevamo già, fortunatamente, all'inizio dell'anno... abbiamo una comunicazione ufficiale che avviene attraverso Telegram, quindi è un canale, cioè loro, tutti i genitori, in questo caso i genitori per il bambino, riceve questo link, lo riceve di solito 24-48 ore prima per ogni lezione, si collega. E cosa vede? E vede, in questo caso, vede il maestro, si vuol far vedere, oppure lo ascolta. La registrazione che il maestro ha effettuato con una favola, una storia, un aggiornamento riguarda... Ma c'è anche la possibilità di interagire così, per curiosità. Esatto. Allora, c'è anche questa possibilità. Sì, sa perché glielo chiedo? Perché in molti, quando hanno letto questa notizia, hanno scritto subito, ma io mi accodo, che questo è davvero un bel esempio, anche perché per altre scuole, per altre comunità che sono in questo momento in quarantena, o anche semplicemente per chi in questo momento a scuola non ci sta andando, e sono tantissimi i bambini della Lombardia, del Veneto, del Piemonte che sono in condizioni magari non come quelle vostre, dove c'è l'impossibilità di entrare e uscire dal paese, quindi avete delle limitazioni maggiori, però in condizioni simili. Quindi insomma, qualcuno ha detto giustamente, utilizziamo questo momento, che è anche una prova, come dire, nuova per il nostro paese, una prova storica, al di là della gravità o meno che in tanti contestano di questo coronavirus, per provare a superare l'emergenza, sperimentare tecniche nuove, come per esempio questa che state facendo voi. Complimenti, D'Ambrogio. Le voglio però chiedere, anche prima di salutarci, com'è la vita in questi giorni lì nelle vostre comunità? Infatti lì c'è il secondo aspetto, insomma, l'aspetto più umano, diciamo così, che io mi ritrovo anche come dirigente un po' a fare anche da intermediario sull'aspetto proprio anche psicologico da parte di molti miei docenti, insomma, in questo momento sicuramente interagisco con loro. E molti, allora, uno in particolare è adesso al reparto infettivo di Padova, perché insomma è venuto a contatto anche con i pazienti, diciamo la famiglia del signor Trevisan, che noi conosciamo perché ha comunque una nostra, era il nonno, diciamo, di una nostra studentessa. Sì. E molti docenti invece, ecco, io insomma lamento un po' questa situazione, molti invece sono fuori VO, però non possono entrare, o comunque non gli viene data, neanche a me stesso, insomma, ci viene data la possibilità di fare il tampone. Ecco, ma che altre limitazioni avete, D'Ambrogio, giusto per capire, Alfonso? Cioè, oltre al fatto di non poter entrare e uscire dal vostro paese, che cos'altro? Allora, non potete diciamo fare? Che io non sono dentro VO fisicamente. Sì, lei è giusto, è in un altro paese. Quindi, per in un altro noi paese. Che non siamo. Allora, però all'interno della zona rossa, o sbaglio? Noi siamo, no, in realtà la zona rossa è solo VO, cioè noi abbiamo, come dire, abbiamo un'ordinanza che è quella di segnalare, io stesso ho segnalato adesso all'altro competente la nostra situazione, ci siamo messi appunto in autoquarantena, questo è il primo aspetto, ma potremmo tecnicamente girare. Sì. E invece all'interno di VO, con docenti che io sto sentendo, loro non, diciamo così, possono uscire da casa, quando si spostano chiaramente i militari gli chiedono insomma di non rimanere in paese, quindi gli spostamenti sono limitati al minimo per le necessità fondamentali, eccetera. Però questo solo nella zona rossa. Voi siete al di fuori, avete comunque questa autoquarantena naturalmente, e da questa condizione siete partiti con questo progetto, che io penso che anche altre scuole possono banalmente provare a prendere spunto, a emulare, a copiare. Grazie Alfonso D'Ambrogio, dirigente del Scolastico Istituto Comprensivo di VO Euganeo e anche delle altre realtà padovane. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. 13:25. Davvero penso che questo per il nostro paese è una prova storica. Sicuramente sarà scritta anche una pagina sui libri di storia di quello che stiamo vivendo adesso, al di là, ripeto, di quello che molti giustamente anche ritengono la non alta letalità di questo virus, fortunatamente, il fatto che in molti casi si tratta di una semplice influenza. Però queste sono le quarantene, queste sono le misure adottate dal governo, dalle regioni, con queste dobbiamo confrontarci. Questo è un fatto nuovo per tutti noi, e però possiamo anche trasformarlo in una, come dire, in una sperimentazione di situazioni nuove, di capacità di reagire alle emergenze. Adesso invece voglio portarvi nel bacino del Po, perché come annunciato dai titoli c'è una situazione per ora di carenza idrica. Il nostro Enrico Pagliarini è andato e ha parlato con il segretario generale dell'autorità del bacino del Po, Meuccio Berselli, per cercare di capire qual è la situazione. Beh, intanto è una dimensione che ci preoccupa parecchio, perché in questo momento non sta piovendo da mesi e il livello del fiume, che ha una portata buona, diminuisce circa il 10% della sua portata ogni settimana, senza però essere attivato il momento del prelievo per gli scopi soprattutto di irrigazione agricola. Quindi il problema ce l'abbiamo fin d'ora e cerchiamo proprio il 6 marzo di organizzare, di riunire nell'osservatorio tutti i portatori di interesse per evitare i conflitti tra i territori di monte e i territori di valle, perché ci avviciniamo a un periodo in cui l'acqua scarseggia. Se non pioverà, che cosa succederà? Beh, intanto dobbiamo dire cosa si può fare subito e cosa si può fare in tempi medi e in tempi lunghi. Allora, bisogna secondo me cominciare a parlare di coltivazioni meno idroesigenti e quindi quali tipologie di coltivazioni sono più adatte. Secondo, migliorare la performance del riutilizzo delle acque dei depuratori. Infine, il fatto di avere un territorio come quello del bacino del Po, in cui la temperatura continua sempre ad aumentare e il bisogno e la richiesta di acqua per periodi di siccità molto lunghi, significa anche fare dei nuovi invasi, quindi trattenere l'acqua quando piove e grazie a questi invasi rilasciare quest'acqua, perché può consentire di avere, come abbiamo nel bacino del Po, il 35% dell'agricoltura nazionale e il 55% della zootecnia nazionale. Senza acqua questo non si può fare, e abbiamo anche una idroelettrico molto importante, quindi capite che integrare tutti questi interessi e tutte queste azioni con un valore importantissimo dell'acqua è un compito molto serio, con grande responsabilità, ma quest'acqua la dobbiamo trattenere e anche velocemente. Così dunque il racconto nell'intervista del nostro collega Enrico Pagliarini dal bacino del Po sulla situazione che per ora è di carenza idrica. Staremo a vedere. 13:28, facciamo un break, Effetto Giorno torna tra poco. Ripartiremo dalla morte di Hosni Mubarak, l'ex presidente 91enne egiziano, spodestato nel 2011, lo ricorderete, sull'onda delle manifestazioni di piazza Tahrir. Che cosa ha rappresentato questo influente personalità del mondo arabo, una personalità contestata per molti aspetti. Si è trattato di un regime, quello di Mubarak negli anni 90 e anche dopo. Che cosa ha rappresentato e che cos'è l'Egitto di oggi, che detiene ancora uno studente, Zaki, fermato con una grave accusa di terrorismo e con gravi però violazioni dei diritti umani. Questo tra poco, ci risentiamo. Vi ricordo anche 349-238-6666 per i vostri messaggi. Tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, 283 contagi in Italia, i primi casi a Firenze e a Palermo. In Europa aumentano i controlli sui voli provenienti dall'Italia. Ricciardi dell'OMS ammette troppa frammentazione. Il presidente del Consiglio Conte prova a stoppare le polemiche, annuncia un protocollo unico per le regioni. I vertici della Lombardia però attaccano governo incapace. Decreto intercettazioni, oggi la Camera vota la fiducia. Calabria, operazione contro l'andrangheta, 65 arresti, in manette finisce anche un consigliere regionale di Fratelli d'Italia. È morto a 91 anni Hosni Mubarak, presidente per 30 anni dell'Egitto, fino al 2011, quando fu spodestato dalla primavera araba. E ripartiamo proprio da quest'ultima notizia, la scomparsa di Mubarak. Ne parliamo con Matteo Colombo, analista dell'ISPI. Benvenuto. Buongiorno Colombo. Ci sente? No, oggi abbiamo sfortuna con le linee telefoniche. In realtà sentivamo un rumore, quindi evidentemente lui era in collegamento. Allora, la notizia questa volta confermata, perché come ricorderete c'è stato un falso allarme parecchio tempo fa della scomparsa di Mubarak, che è stata confermata la morte anche dai familiari dello stesso Mubarak. Lo ricordiamo, presidente dell'Egitto dal 1981 fino al 2011, ex militare, un regime che aveva delle caratteristiche molto particolari, quello dell'Egitto. Se riusciamo a tornare in collegamento con Colombo, ce le racconterà lui che cosa ha rappresentato per il paese Mubarak, un regime che consentiva comunque una relativa mobilità, libertà di movimento ai cittadini, ma anche una discreta floridità economica. Poi ci furono delle pesanti accuse di corruzione, ma anche accuse di violazione dei diritti umani, e Mubarak fu spodestato proprio nel 2011, a gennaio, quando ci furono le manifestazioni di piazza Tahrir, l'inizio della cosiddetta primavera araba. Se non recuperiamo Colombo, allora io vi farei sentire intanto un servizio, se ce l'abbiamo, quello per tornare un momento alle notizie sul coronavirus, perché fra tante polemiche governo e regioni cerchiamo di capire che cosa si può fare, che cosa non si può fare nelle varie regioni italiane, quali sono gli eventi che si possono realizzare, quelli che invece sono stati bloccati, chiusi, impediti. Rosanna Magnano, sentiamo. Stop alle gite in tutta Italia, secondo la decisione del MIUR, e l'iniziativa dei musei gratuiti e parchi archeologici domenica 1 marzo è sospesa. Ferme le scuole e le università per una settimana nelle regioni del nord Italia colpite dal virus. In Veneto e in Lombardia sospesi anche gli esami per la patente di guida. Venezia chiude il teatro La Fenice, disinfezione straordinaria di vaporetti e autobus. Stop al Carnevale di Venezia. In Lombardia il Duomo di Milano resterà chiuso al pubblico in via cautelativa. Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Dalle 18 bar, pub e discoteche chiusi e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico. Chiusi tutti gli sportelli amministrativi. In Piemonte stop al Carnevale di Ivrea, ma non alle messe. È richiesto ai fedeli di ricevere la comunione eucaristica in mano e di astenersi dal segno della pace. Rinviata nel Lazio la prova di ammissione laurea in medicina e chirurgia al campus biomedico di Roma. E Puglia e Molise sono pronti al censimento per chi rientra dal nord Italia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua e abbiamo anche recuperato Matteo Colombo, analista dell'ISPI. Buongiorno. Sì, buongiorno. Questa volta ce l'abbiamo. Pensavo fosse successo qualcosa. Sta bene, sì, Colombo, sì. Tutto bene, grazie. Così. No, perché abbiamo temuto per un momento. Allora, in tempi di coronavirus, tra l'altro, vabbè, scherzi a parte. Senta, Colombo, che cosa abbiamo già introdotto la notizia mentre si perdeva il collegamento telefonico? Che cosa ha rappresentato Mubarak, 30 anni di presidenza egiziana, per questo paese? Sicuramente è un presidente che ha garantito da un certo punto di vista stabilità e crescita economica, però d'altra parte durante il suo periodo di governo sono anche aumentate molto le disuguaglianze, la repressione interna ovviamente e soprattutto il peso politico dei militari ed economico, perché in Egitto detengono anche alcune aziende, si parla addirittura del 30-40% dell'economia nazionale all'interno appunto del paese. Quindi alcuni dei problemi che ci sono ora sono nati anche per l'azione di governo di Mubarak. Mubarak venne spodestato nel 2011, proprio all'inizio della cosiddetta primavera araba. Nel gennaio furono quelle grandi manifestazioni di piazza Tahrir, e poi per una serie di situazioni Mubarak decadde e fu accusato anche di violazione dei diritti umani. Però che fine hanno fatto poi quelle accuse per quanto riguarda proprio la figura di Mubarak? Perché alcune di quelle poi caddero, se non ricordo male. Sì, esatto. Rispetto per esempio al trattamento nei confronti del presidente Morsi, Mubarak, soprattutto dopo il 2013, ha avuto una situazione molto diversa. È stato per un periodo agli arresti domiciliari, in cui tra l'altro poteva sempre incontrare anche delle persone, e quindi diciamo che le accuse sono rimaste, sono state però accuse abbastanza lievi e di fatto non si è arrivato ad una detenzione dura come è stata appunto per esponenti dei Fratelli Musulmani o quant'altro. Quindi diciamo che si è avuto un trattamento tra virgolette morbido. Ecco, ma nel frattempo, no, da quel momento nel 2011 a oggi, che direzione ha preso quel paese, il paese nel quale appunto quelle manifestazioni di piazza facevano credere a molti che si potesse aprire una pagina nuova di maggiore libertà per l'Egitto? Nel frattempo, come è andata? Che direzione ha preso il paese? Il paese di fatto è in parte tornato a quelle che erano le pratiche precedenti, è tornata anzi in maniera anche più alta la repressione da parte delle persone del governo nei confronti di chi dissente, e soprattutto si è un po' persa quella speranza che c'era inizialmente. C'è molta disillusione in Egitto, quindi da questo punto di vista le parole d'ordine di Mubarak, che erano appunto crescita economica e stabilità, sono un po' tornate all'interno di quello che è l'attuale assetto di governo egiziano, con alcune differenze ovviamente, perché al-Sisi ha avuto una politica un po' diversa rispetto a Mubarak su alcuni aspetti. Senta Colombo, quali sono le ultime notizie che si hanno dello studente egiziano che studiava a Bologna e che poi è stato fermato al suo rientro al Cairo, detenuto in attesa di un giudizio con pesanti accuse ma anche con pesantissime violazioni dei diritti umani? Zaki. Purtroppo le notizie non sono buone, perché c'è stata una conferma delle misure cautelari che sono state prese. Tra 10 giorni ci sarà un'altra udienza in cui si dovrebbe capire qualcosa in più, però in Egitto fino a 3 mesi si può arrivare appunto alle misure cautelari attuali ed eventualmente con altri cavilli, diciamo, o con periodi anche più lunghi. E in questo momento non ci sono purtroppo grosse novità. Tra l'altro l'Italia, avendo tenuto non fino in fondo il punto sul caso Regeni, ovviamente ha un potere negoziale un po' più basso rispetto a quello che aveva alcuni mesi fa, perché l'Egitto sa quanto noi teniamo in considerazione appunto il Cairo e quanto appunto i rapporti con questo paese siano importanti per noi. Quindi serve forse una forte mobilitazione popolare per avere qualche cambiamento al momento. Va bene, staremo a vedere. Intanto grazie a Matteo Colombo, analista dell'ISPI, per essere stato con noi. Buona giornata. minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Tra poco, come sempre, fra pochi minuti, la pagina del giornale internazionale con Giulia Crivelli, preceduta però come sempre dall'appuntamento con la pagina sportiva, come abbiamo detto in questi giorni, quel che resta delle eventi sportivi in Italia in tempi di coronavirus. Ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, cosa ci stai preparando per tutti i convocati? Beh, riprende la Champions, l'altra metà della stasera Champions. C'è una seratona. Seratona sì, perché c'è Messi in casa di Maradona, per usare un'immagine molto abusata in questi giorni. C'è il Napoli che riceve il Barcellona, c'è la Juventus che riaffronta il suo incubo, il suo core business o la sua ossessione, cioè la Champions League. Si riparte da Lione e quindi stiamo... Guardiamo che cosa succede lì, ne parleremo ovviamente, oltre che con Pierluigi Pardo, con vari ospiti, tra cui Marino Bartoletti e Leo Turrini, oltre che con Paolo Condò, che è il decano e il più esperto di giornalisti di calcio europeo tra di noi. Ebbene, di questi argomenti affronteremo, con l'aiuto degli ascoltatori, messaggi WhatsApp vocali 349-238-6666. E quanto al resto, certo, sarà tema di discussione, stadi chiusi o semichiusi se guardiamo il complesso del campionato italiano. So che qualche polemica già c'è. Grazie Carlo Genta, quindi ti ritroviamo con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi, come annunciato, ci fermiamo per un break, torniamo tra poco con i giornali internazionali. Giulia Crivelli.